già da forte catena cinte a maglio le piante, or di sua morte scriva la man di Tito la sentenza fatal, giusta che mora. Chi trascura il comando della patria è fellon della patria. Parche di far le note la man sul foglio aperto abbia perduto l'uso. Scrivi o mia destra e mosso sia dalla colpa il giudice. Non posso, Tito, non puoi, non posso castigare i delitti, un senso contumace a tanto arriva. Mora il reo della patria e Tito scriva. Il castigo è da giudice, egli è vero, ma la pietà è da padre. Maglio non è mio figlio, errò fellone, scritte col di sangue di giudice e di padre al tebro in riva, leggaci le giust'opre e Tito scriva.